Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Lestolmo Rock, domenica di intervista, una breve introduzione per quello che sarà un po' la puntata di questa domenica. Come dicevo, domenica di intervista, una domenica leggermente particolare, particolare, un attimo speciale anche per quanto mi riguarda, perché solitamente, come tanti sanno, vado a intervistare band che hanno tirato fuori un disco quest'anno o comunque nei mesi che stiamo avendo appunto in questo 2025, in questo momento, però non potevo cogliere l'occasione in questo momento, perché come avevo fatto nella piccola prefazione del post, ci sono band che ti seguono dall'adolescenza e poi purtroppo da un momento all'altro, per svariati motivi che possono essere lavoro o anche per famiglia, lasciano purtroppo andare la band, quindi ti ritrovi un attimo lì da un momento all'altro che non le puoi più vedere da live. E a distanza di quasi 10 anni ti fanno una reunion praticamente dal nulla, quindi dici: che cazzo, cosa fai? Non ci vai dopo averteli seguiti per tantissimi anni. Mi sembra brutto, quindi era doveroso per quanto mi riguarda venirvi a vedere. Sto parlando di Marshmallows, quindi intanto ti vado a salutare e poi andremo a parlare effettivamente di quello che è stato. Intanto ciao Francesco, come va? Tutto bene, grazie anche dello spazio e grazie delle belle parole. Figurati, come ti dicevo, è un piacerissimo per me averti qua in intervista. Come dicevo, speciale perché i Marshmallows hanno fatto questa reunion a sorpresa il weekend scorso, poi andiamo a capire anche il motivo perché è successa questa reunion. Non hanno un album, spero, non ce l'avete un album a ridosso oppure no? Ok, quindi, ancora no? Esatto. Rimaniamo sul vago, dici, metti caso che un giorno chissà. Un giorno chissà, esatto. Come dicevo, sabato scorso hanno avuto questa data di reunion al Vidia di Cesena. Tante interviste sicuramente sono state fatte prima della data, un po' per promo, appunto per mettere a promo della reunion dei Marshmallows e della data. E di conseguenza a me faceva piacere avere anche un responso quasi a caldo, perché sostanzialmente essendo una settimana dopo dalle reunion, un po' come ci si sente. Quindi andremo a parlare un po' di questo, ma non ti avevo avvertito perché volevo una risposta sincera più possibile. Ho una domanda introduttiva a cui nessuno scappa, quindi sicuramente da quello che ho capito ci hai anche un attimo lavorato, perché l'hai organizzati diverso tempo fa. Sicuramente sai che i NoFX si sono sciolti lo scorso anno, questa triste tegola che purtroppo ci ha colpiti, ma era giusto che bene o male si sciogliessero, come sicuramente tanti altri lo faranno. Quindi ti vado a chiedere cosa sono per te i NoFX? Ah, allora, domandina. No, vabbè, NoFX sono tutto per la scena, per chi come noi è nato a fine anni 90, e era la cassetta che si tramandava tra amici, che ti dicevano ascolta questo gruppo, e li ho seguiti, li ho visti. E li ho organizzati, perché ho avuto la fortuna anche di conoscerli e di vederli live, e ho avuto anche la fortuna di vedere un concerto live dove hanno suonato veramente bene. Non capitava spesso, perché era una gran festa, però diciamo che tecnicamente live non erano il massimo, ma più che altro perché era difficile già farli arrivare sul palco, però è stato incredibile. E dispiace, è un periodo della vita, comunque sia, so che sono progetti, avevano anche progetti nuovi loro e che esulano dal discorso puramente musicale, da Lef che è iniziato a fare l'attore, o Mike che doveva fare altro, sembra che possa uscire a breve un qualcosa, modello Sabbath, modello la sua vita, la sua famiglia, le sue cose. Però emozionante, e più che altro sono contento. Momentaneamente si è frizzato. L'ispirazione. Dicevi sei contento perché sei un attimo frizzata la connessione. Ah, ok. No, è perché sono stati una band che è durata per tanti anni, e quindi è stato, diciamo, una band che ha aiutato a crescere in tanti. Poi nessuno faceva la musica in NoFX, Però tutti, ascoltando in FX, avevano deciso poi di fare punk rock, e questa cosa molto positiva. E ricominciamo un attimo, adesso se ci sarà qualche momento che magari mi prenderò un attimo, perché ci dilunghiamo in qualche discorso nella diretta di Instagram, quindi vi consiglio, se riuscite, a seguirvi un attimo entrambi, perché anche dall'altra parte ci sarà da ridere. Come dicevo, sabato scorso questa data reunion, quindi vabbè, Marshmallows li andiamo a ascoltare con i grandi pezzi che hanno fatto, perché per andare a toccare qualche un po' tutti i primi tre album alla fine sostanzialmente. Però la domanda che avevo un attimo preannunciato prima: come è nata un po' questa reunion dei Marshmallows a distanza di 9-10 anni da quello che avevate fatto l'ultima volta? Guarda, è nata come ci eravamo fermati, non ci eravamo tra virgolette mai sciolti, non c'erano mai state diatribe o litigi con la band, e come accennavi tu, a un certo punto ci siamo trovati nella nostra vita ad avere degli impegni che ci portavano del tipo a fare le prove durante la settimana stanchi, diciamo nessuno voleva smettere, ma ci rendavamo conto che era diventato un po' pesante. Tutti abbiamo figli, io ne ho tre, gli altri ne hanno due, quindi è una bella prole. Quindi piano piano loro hanno continuato a suonare, hanno continuato a suonare proprio anche con altre band, cover band, tribute band, perché comunque la passione loro avevano della musica. Io mi sono buttato sull'organizzazione, ci siamo continuati a sentire, a vedere. Rimini è piccola, quindi ci vedevamo, ci sentivamo, venivano ai concerti che organizzavo, ci vedevamo sempre a Natale tutte con le famiglie, quindi una cosa positiva. Poi considera che poi questo è stato l'ultimo anno in cui ci siamo visti pochissimo. Io credo che gli altri, prima di metterci insieme, era passato quasi un anno che non ci fossimo visti proprio in viso. Ci sentivamo, abbiamo una chat con una serie di musicisti qui a Rimini dove ci prendiamo in giro e ci raccontiamo stronzate tutto il giorno, però non ci eravamo visti. A un certo punto mi ricordo ancora, ero sul letto in camera prima di andare a dormire, mi arriva questo messaggio di Andy e mi dice: guarda, ci sono questi ragazzi del Sick Party che hanno fatto una cosa bell'aria lo scorso settembre, io avevo sentito parlare di questa cosa qui e ci hanno chiesto se saremmo disponibili a fare una data, ci sono queste band, Bad Prog, Impossibili e Libidine. Io loro li avevo un po' seguiti perché comunque non ho mai smesso di ascoltare musica italiana, punk rock italiano, quindi nel mio piccolo ogni volta che esce qualcosa me lo ascolto, mi compro i CD e niente, io ero lì nel letto, ho risposto sì e ho spento il telefono. Bellissimo. ma te la sentiresti? Fa sì, spento, messo offline, sono andato a dormire e con la voglia la mattina dopo, che io la sveglia ce l'ho alle 6 perché devo portare tre figli a scuola e tutto, di accendere il telefono e vedere che cosa era successo sotto in questa chat del gruppo, e niente, è partita da lì. Quindi è stato una settimana dopo, ci siamo visti per le prime prove, ma era proprio come, ma è incredibile, come fare una reunion della scuola, delle elementari o delle superiori, che incontri gente che conosci bene, se la storia è tutto, però ritrovarsi lì, Fabio dietro il basso, Andy dietro la chitarra, Teo alla batteria, Jackie che è il chitarrista che ha preso parte all'ultimo disco e negli ultimi anni quando suonavamo, che lui vive lontanissimo per me perché abita a Gradara, quindi cioè lontano da Rimini, che ha preso e venuto. Abbiamo iniziato a fare la primissima prova, un po' di polvere addosso, però tanta roba, cioè nel senso non è che è lì che mi fermo. Aspetta, questo come. Io ero molto preoccupato, mi ricordo i testi, va a capire, perché poi ho ascoltato sempre il resto, ma non mi ascoltavo mai i merch. No, invece quando una volta che parte le prime note ti torna, cioè stiamo parlando di noi che suoniamo insieme, almeno con Andy e con Fabio, dal 98, cioè vuol dire che comunque ne sono passati gli anni che hai suonato, 27 anni, che quei pezzi li hai fatti veramente migliaia di volte, sia dal vivo, in prove, tutto. E quindi ripartire è un po' come parlare, secondo me. Quindi come se fossi stato zitto per un anno e poi mi hanno detto: ok, facciamo una chiacchierata. Sì, forse qualche accento lo sbagliavi, però comunque sia, ce l'avevi dentro. Ed è stato molto molto bello, perché poi, capito, una volta fatto questo ti veniva proprio voglia di dire: dai, quando ci rivediamo? E diciamo è passato il periodo dei bambini piccoli. Ho notato questo, cioè che effettivamente adesso essendo più grandi è anche un po' più semplice organizzare una sera le prove. Una volta che finisci le prove ti fermi anche un paio d'ore a bere una birra e ti fai una chiacchierata, rispetto prima che quando erano piccoli, anche per aiutare in casa, andavi, facevi le prove, poi capito, guardavi l'orologio, dovevi scappare via, non, cioè, non c'era quasi dialogo. Invece così adesso, avendoli più grandi, io la più grande mia c'ha 16 anni, quindi 16, 14, 12, anche gli altri sono su quella, su quelle lì tra i 18, Fabio che c'ha un figlio di 18 anni e chi più piccoli sono intorno sempre ai 12, è un pochettino più semplice, diciamo, organizzare una volta, due volte alla settimana che dici va benissimo, dai, andiamo, stacchiamo alle 8 da fare le prove fino a mezzanotte, mi do queste 4 ore di, 2 ore di prove, 2 ore di anche organizzazione, cosa vogliamo fare, che pezzi, raccontarci un po'. No, no, ci sta, bellissimo, bellissimo che effettivamente siate riusciti a rimanere in contatto, non si siano stati scazzi, perché alla fine è quello il brutto, che magari dice una band si scioglie, non si sa mai il motivo alla fine, perché rimane molto nascosto alle volte la vera verità di quello che è successo, quindi essendo rimasti comunque in contatto è sicuramente una bella cosa, ovviamente. E rientriamo, ce ne sono, come dicevo, sono un sacco di pezzi storici dei Marshmallows, ma come ti avevo un attimo anticipato, come è stato riprendere il palco, riprendere gli strumenti, riprendere un po' tutto, più che altro magari il discorso di riprendere gli strumenti te l'hanno già chiesto, quindi magari ti vado a chiedere effettivamente come è stato risalire su un palco dopo tanti anni, non per organizzare, ma effettivamente perché eri tu che dovevi suonare. Allora, è partito da molta agitazione la mattina dicendo dai, adesso dai, è arrivato il momento di un mese e mezzo fa, ormai ci siamo, è oggi. E la cosa più bella, penso che per tutti i musicisti e per tutti coloro che suonano, che hanno la passione dei live, e non è solo il palco, ma è la giornata, cioè arrivare al locale presto, iniziare a montare tutto, conoscere i tecnici. Poi per me arrivare al locale e abbracciarmi con Libero, che è il proprietario del Vidia, con cui io, diciamo, lo conosco da tanti anni, lo stimo, lo rispetto da sempre, e andare, sentire il primo soundcheck, parlare col fonico, alzami qui, abbassami lì, cioè, tutta questa cosa qui era un'invasione di emozioni, di brividi dentro, proprio perché effettivamente iniziavi a capire di volevi star lì. Cioè, io stavo bene lì, non sarei mai sceso da quel palco in quel momento lì, anche nel soundcheck. Poi arrivano le band, non li conosci, li hai sentiti suonare, li conosci poco, loro conoscono te, perché va bene, noi siamo vecchi, quindi in alcuni casi ti potevano... Allora ti fermi a fare una chiacchierata, ho fatto una bellissima chiacchierata con Jack dei Libidine fuori, e per me è stato... Cioè, io credo che per lui sia stata una cosa interessante, per me è stato emozionantissimo farmi raccontare anche che cosa stanno facendo, vedere che stanno girando l'Italia, come stanno scrivendo i pezzi, a fargli i complimenti per il disco, che è un ottimo disco, il loro ultimo che è uscito. Poi arriva il momento che le band suonano, vedi, la cosa bella è stata che arrivare al locale verso dopo cena, verso le 9:30, dopo che hanno cenato, e vedere che c'era tanta gente, quindi comunque anche questa cosa qui ti aiuta, anche se Merce abbiamo fatto dal basso all'altissimo, cioè abbiamo suonato davanti, lo raccontavamo l'altra volta, abbiamo suonato davanti a due persone a Lugano tantissimi anni fa e si menavano tra di loro, quindi è stata una cosa stupenda, c'era nessuno nel locale, c'erano solo sti due che si menavano sotto il palco, fino a suonare in eventi enormi, facciamo, abbiamo suonato di spalla a Elio e le Storie Tese al porto di Savona, e la line-up era Marshmallows, The Rozer, Elio e le Storie Tese. Mamma e mia. C'erano 6.000 persone, perché erano tutti per loro, certo. Però trovarti questa distesa enorme di gente ti dà una carica, però noi siamo stati abituati a caricarci anche con una, due, tre, cinque persone, perché comunque era un modo per raccontare chi siamo e che cosa facevamo. Poi niente, è arrivato il momento del palco, non arrivava mai, eri lì fuori, è partito l'intro, abbiamo deciso di partire con un pezzo che è Cinzia, di Qualcosa di Nessuno, che è un pezzo punk rock diretto, e niente, nel momento in cui partono loro, batteria, basso, chitarre, arriva il mio momento, faccio sti due passi e da lì non mi ricordo più niente, sinceramente. Si dice oramai. Me la son goduta totalmente, sì, me la son goduta completamente. Mi rendo conto che si può far sempre di più, però guarda, è stata una figata, è stato bello, veramente. No, bene, mi fa piacere. Ti dico anche da questa parte, c'è stato un attimo di dalla parte del pubblico, da quello che ero io, dici, rivedersi un attimo i Marshmallows dopo tantissimi anni, una lacrimuccia, dici, finalmente ci siamo. So che una piccola comparsata, però almeno mi godo questa ora e mezza che suoneranno, e sperando di poterli rivedere un'altra volta. Però intanto faccio tesoro di questo ricordo, e ti riporta anche un po' indietro, sinceramente, perché ovviamente è... Da, come ti dicevo, sono tanti anni che io personalmente vi seguivo, quindi mi ritorno ai primi concerti visti dei Marshmallows e quant'altro, al Rock Planet o da qualche altra parte. Però mi fa piacere, anche se è stata una piccola comparsata. Piccola anticipazione, che comunque è già uscita nei vari social: l'1 marzo suonerete dagli organizzatori del Velvet. Dimmelo tu, perché così sai meglio tu le informazioni. Sì. Ah, ma allora c'hanno anche lì, se il Velvet chiama, io personalmente, ma i Marshmallows uguali, non possono che rispondere sì. Il Velvet, locale storico di Rimini, che non c'è più come locale, è stato abbattuto anni fa, e c'è stata una festa finale dove hanno partecipato veramente tantissimi artisti, ma di livello incredibile. Noi abbiamo suonato ed è stato veramente l'ultimo concerto che abbiamo fatto prima della data del video. E mi ha contattato il DJ storico che lavorava con Thomas Balsamini, dicendomi: facciamo questa festa. Il Velvet, solitamente, per tenere anche alto il marchio e per poter comunque fare anche una sorta di ricordo di quello che è stato un marchio storico. Io giro per l'Italia, mi capita spesso anche nei concerti di vedere gente con la maglia del Velvet, e fanno alcune feste, un paio estive durante l'inverno, fanno tipo Halloween e Carnevale. E c'è un locale qui in zona, un locale piccolino, cioè un locale sui 700-800 posti, che si chiama Wonderland, e niente, loro ci hanno proposto questa cosa qui, e noi abbiamo risposto subito di sì. Quindi il 1 marzo suoneremo a Rimini, quindi torneremo in casa, e la cosa interessante anche per noi, anche a livello di emozioni, perché nella data del Vidina era un po' più complicato, nella data del Velvet avremo anche a seguito la prole, e quindi verranno i nostri figli a vedere il concerto. Mio figlio, io sono in camera di mio figlio in questo momento, vedete una tastiera modello di Hive okay. Dietro di me suona anche un po' di pezzi di batteria, suona la batteria, e quindi verranno anche loro, e niente, tornare non è il Velvet, però tornare in un evento organizzato dai ragazzi del Velvet, e su questo ringrazio veramente tantissimo sia Lucia che l'appa che ci hanno chiamato, è non tanto il discorso emozionante, ma è un qualcosa che manca, che quindi anche sapere che si possa essere un concerto rock, punk rock, quello che deve essere, organizzato da loro, per noi è motivo veramente di orgoglio, e abbiamo detto assolutamente sì, visto che ormai siamo in ballo, abbiamo tolto un po' di polvere dalle spalle e adesso siamo pronti anche per Rimini. Oh, fantastico, fantastico. Quindi lo ripeto ancora anche un'altra volta, perché se gli fosse perso la reunion del sabato scorso al Vidia, l'1 marzo potranno rimediare andandosi lì a vedere effettivamente a Rimini. Poi tutti i vari dettagli sicuramente sono nella pagina dei Marshmallows e di quello che era un po' il Velvet. Seconda parte di Le Stormon Rock, sono sempre qui collegato con Francesco dei Marshmallows. Me l'ho dimenticato nella prima parte, se qualcuno sta seguendo la diretta di Instagram può sicuramente tranquillamente scrivere qualche messaggio, qualche saluto, come qualcuno aveva già fatto, tipo Danilo, mio omonimo, e se no volendo 333 180 94 94, tramite WhatsApp, e se ho il tablet qui davanti a me, quindi ho la possibilità di leggere i vari messaggi se qualcuno fosse interessato, oppure ascoltatevi i pezzi, ascoltatevi questa chiacchierata. Per chi non potesse, c'è il podcast che uscirà tra qualche giorno, quindi anche lì la possibilità di ascoltarsi questo c'è. Una domanda che mi è venuta un attimo in mente appena mi hai iniziato a parlare un po' dei vostri figli, delle vostre famiglie, ma come la prenderesti se effettivamente i Marshmallows continuassero, ma con i vostri figli? Chi suona batteria? Magari nel tuo caso, ho visto che uno dei tuoi figli suona la batteria, quindi magari non andrebbe a cantare, ma andrebbe alla batteria, per dire. No, se i Marshmallows continuassero, ma con i figli dei Marshmallows, sarebbe carina come cosa, come la vedresti? Fabio ha un figlio che si chiama Emiliano, che è un batterista eccezionale, veramente bravo, studia, fa il liceo musicale a Forlì, bravissimo. E la cosa bella, quando abbiamo fatto le prove, lui è sempre stato lì con noi, ascoltava, guardava, e quindi non lo so, Fabio ha anche una figlia che suona il basso, quindi piano piano stiamo strutturando, diciamo, il futuro dei, diciamo, i Marshmallows della nuova, del nuovo decennio. Non lo so, penso che sia Marshmallows o non sia Marshmallows, credo che l'esperienza di una band e quello che vivi nelle prove, quello che vivi nello stare insieme a degli, diciamo, dei fratelli che diventano per te, perché comunque sia inizi a scrivere, ma anche soltanto se suoni inizialmente cover, è un'esperienza che auguro a loro di fare. Perché ti forma tantissimo. Io ho sempre detto che quando suonavamo con i Mersh, dopo anni che eravamo insieme, facevamo dischi, tour, concerti, ho sempre detto: guarda, se quando arriveremo a 50-60 anni, se avremo smesso di suonare, apriamo un bar e lo chiamiamo Marshmallows, solo per rivederci lì e stare tutti insieme, dove io faccio le birre, tu fai i panini, quell'altro pulisce i tavoli, però dobbiamo essere sempre il gruppo che qualcuno fa qualcosa. Quindi sì, sarebbe emozionante. Già adesso ogni tanto può capitare, se dovessimo continuare con prove e tutto, che mi possa suonare qualche pezzo alla batteria, però auguro principalmente loro di trovare quell'emozione che abbiamo provato tutti noi a suonare in un gruppo, e dello stare insieme, dello scrivere, di sentirsi protagonisti insieme, di trovare difficoltà anche, però l'esperienza del viaggio, di uscire, di andare a suonare in giro, di dormire, di viaggiare la notte. Io ho degli aneddoti su Marshmallows che sono incredibili, ma non sono incredibili perché sono successi a noi, ma penso sia successo a tutte le band italiane e mondiali che girano, dai viaggi in furgone alle situazioni difficili dei locali, ai momenti di esaltazione incredibile. E quindi che venga, che lo possano vivere, sarebbe una cosa incredibile, sarebbe una cosa veramente bella. Ok, ottimo, bene, mi fa piacere. Ho un'altra domanda riguardante il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, che è la cover azzeccatissima dell'Isla Bonita di praticamente 20 anni fa, perché se non mi ricordo male Imperfect è del 2005, quindi direi che sostanzialmente sono 10 anni fa. Una piccola curiosità riguardante, effettivamente, non per la scelta della cover, ma principalmente per i diritti, no? Sai, avendo preso una cover di una canzone di Madonna, quindi sai, diritti, non diritti, penso ci sia un po' di casotto dietro, quindi come siete riusciti a poterla fare senza avere problemi alla fine, sostanzialmente, giusto per capire, perché sono curiosità che mi saltano fuori in mente e mi ho detto: cazzo, figata, però come hanno fatto con il discorso? Non è che scrivi direttamente a Madonna e dici: oh, ciao bella, non è che posso fare la cover di un tuo pezzo. Poi li scrivi in italiano, tra l'altro. Madonna, esatto, quindi... poi no. No, allora, nasce semplicemente da una... Abbiamo ascoltato, penso Teo l'abbia portata in sala prove, dicendo: perché non proviamo a fare questa cover? E noi abbiamo avuto la fortuna, e i Marshmallows l'hanno avuto dal primo momento, di avere di fianco, come diciamo sesto uomo della squadra, K della Monia Records, che ci ha accompagnato sempre, anche quando proprio noi eravamo dei pizzichelli che non... cioè, due pezzi, tre pezzi, c'è sempre stato vicino, e quindi quando gli abbiamo proposto questa cosa, so che lui ha fatto tutto lui, quindi ha trovato il modo per poter far uscire il disco, per poter farlo, perché poi anche altri, lui seguiva anche Shandon principalmente, ma così anche tante altre band, e quindi anche in quel caso lì ogni tanto capitava qualche cover interessante da fare, quindi sapevo un po' come muoversi. La cosa particolare è che, non so se in tanti lo sanno, ma la seconda strofa di La Isla Bonita è cantata dal cantante dei Birbong. Quindi, e quindi adesso l'ascolterete. La prima strofa la canto io, il ritornello la canto io, poi c'è una ragazza che fa le voci, la voce, diciamo, sì, più femminile, e lo special e tutto, ma la seconda strofa è cantata dal cantante dei Birbong, perché noi eravamo in studio, io ero in studio a registrare a Ravenna, lo studio 73 a Ravenna, e siccome uno dei tecnici era uno dei Birbong, gli ho detto: oh, chiama il tuo cantante, devi venire qui, perché dai, anche come accento e come tutto mi piacerebbe. È venuto, l'ha cantata, però non tanti sanno che c'era lui all'interno di questo brano. E tra l'altro è un brano che è stato inserito, sai, col fatto Madonna, col fatto La Bonita, tutto quello che vuoi, è stato inserito su Spotify, su delle compilation, e La Isla Bonita è a 750.000 ascolti, che è uno dei brani, diciamo, del punk rock italiano, togli i mostri sacri, certo. Però se tu vai a vedere, è uno dei brani più ascoltato del punk, non è una cover, non è nostra cosa, però dei più ascoltati nella scena italiana, perché per qualche motivo strano è stato inserito in qualche playlist americana di qua e di là, e quindi hai ascolti da New Mexico, da Bogotà, ovunque, e quindi se vai a vedere su Spotify ti trovi questa canzone che è vicina ai 750.000 ascolti. Figo. Incredibile come cosa. Figo. No, fa piacere. Io l'ho scoperto 6 mesi fa, sono andato a vedere, ho detto vai a vedere un attimo. Miseria, meglio, meglio tardi che mai. No, bello, bello. Come stavo dicendo, ah, che... no, sì. No, una piccola soddisfazione comunque, anche perché io quelle volte che ho messo appunto La Isla Bonita, la vostra versione, e nei vari DJ set che ho fatto, c'era qualcuno che ogni tanto mi veniva a chiedere, oh, ma di chi è sta canzone, che la cover di Le Madonna che è fatta strabene? Cioè, ragazzi, è Marshmello, statevi a vedere, andatevi ad ascoltare, perché oltre a questa cover sono anche dei bravi musicisti, oltre ad aver fatto questa bella cover. E rientriamo per l'ultima più o meno quarto d'ora di ultima intervista. Rimanente qui con Francesco dei Marshmallows, che ricordo ancora che suoneranno un'altra volta l'1 marzo a Rimini all'organizzatore del Velvet, al locale che, ridimmelo tu perché mi sfugge, al Wonderland. Marshmallows, 5 album, penso nessun EP, mi pare, o avete fatto anche qualche pezzo? Cioè adesso no. No, esatto, molto... No, un primissimo che si chiamava Speedcore Academy, che era la foto del mio liceo, e del liceo scientifico Einstein di Rimini, ma erano i primissimi, giusto per avere un paio di brani all'interno da poter dare a qualcuno e dire dai, per suonare, ma avete qualcosa, mi fai sentire cosa fate? Tra l'altro una cosa simpaticissima, noi abbiamo registrato quell'EP, nella formazione c'ero solo io, perché era ancora prima del passaggio Alcatraz a Marshmallows, e l'abbiamo registrato dal batterista dell'Itfiba. Mamma mia, cioè, mi stai dicendo un sacco di chicche qua dentro che... ma guarda, una cosa fuori di testa, e la sera finito di registrare, perché lui aveva uno studio a Misano, e vicino, cioè sarebbe Rimini Sud per intenderci, più cattolica, più vicino Pesaro, okay. Finito la registrazione e siamo andati a mangiarci una pizza ed è arrivato anche Piero. È una cosa incredibile. Dici, oramai, sì. No, ma era lì con lui, no, fantastico. E quindi adesso a ripensarci, in quel momento lì, sai, Franco Cafoglio, batterista del Tiva, aveva sto studio, ma tantissimi studi, è andato lì una mezza giornata, saranno preso 4-5 ore, quasi in presa diretta, per avere un pezzettino, per avere un file, perché al tempo non c'erano quello che fai adesso a casa, che adesso a casa escono fuori i Black Album, e invece lì avevi bisogno di andare da uno che ti aiutava in tutto, e lui era il batterista dei Tiva. Cazzarola, che figata. Bello, bello. Come ti dicevo, adesso un'altra volta che ci riusciamo a beccarci, ci facciamo due chiacchiere. Ah, no, per assolutamente, sapere, assolutamente. Che sicuramente ne avrai tantissime da raccontare, però magari qualche cosa le più eclatanti. Come ho detto, la stessa cosa anche con Olli, perché anche lui, avendo passato 30 anni su palchi e sapendo un sacco di retroscena, anche lui ha detto, appena ci ribecchiamo un'altra volta, anche con te facciamo due chiacchiere su questo, per avere questi retroscena, perché mi fa piacere su quello che è stato sia la band che anche altri aneddoti di quello che è stato. Quindi adesso ti vado a fare una domanda così a bruciapelo, nel senso, allora, momentaneamente hai detto album, effettivamente no, perché momentaneamente la tempistica non c'è, diciamo, per modo di dire, ma una terza data può saltare fuori oltre quella dell'1 marzo? Allora è così, noi fino al 25, quando abbiamo lanciato la data del 25, abbiamo ricevuto diverse mail, diversi messaggi sui vari social, anche se poi non eravamo molto social, ci stiamo un attimo, stiamo un po' seguendo perché lo utilizziamo adesso come stanno facendo un po' tutti, come se fosse la tua pagina nel tuo sito web, perché è quel momento in cui riesci anche a dialogare più velocemente con le persone. E avevamo ricevuto diverse situazioni dicendo: ah, siete tornati, ma perché non venite qui, non venite lì. Abbiamo detto a tutti: aspettiamo il 25, siamo il 25, saliamo sul palco e non stiamo in piedi, ci meniamo, che ne so cosa poteva succedere. Invece è andato tutto molto bene, e quindi sì, quindi parlando anche con il resto della band è stato il fatto di dire: ok, ci siamo e siamo a disposizione e vogliamo suonare. E non sarà sicuramente come era al tempo, che tu dici: bene, adesso faccio una serie. No, saranno, secondo me, se riusciamo, 6-7 date da adesso fino a settembre, quindi un paio di date sull'estivo, qualche concerto estivo, qualche festivalino estivo, un paio di concerti in alcuni club che ci hanno chiamato per poter fare una data. E il discorso che dicevi tu prima anche sul nuovo materiale, io credo, per come sono fatto io e per come è fatta la band, basta soltanto un input. È come è successo del: oh, ci hanno chiamato, puoi suonare? Sì, spengo il telefono, ciao. E ho scritto tanto in questi anni, ho tanti testi, ma che senza musica sono, diciamo, sorte di poesie, chiamale così, cioè un tema, una cosa che mi dava fastidio, una cosa che mi stava troppo a cuore, allora iniziavo a scrivere qualcosa. E secondo me, vediamo, se a un certo punto nello suonare insieme esce la possibilità, una volta dovevi fare il disco, una volta funzionava così, noi abbiamo vissuto in quel periodo lì, dove tu dovevi fare 12, 13, 14, facevi 8 pezzi, sì, ma perché non hai niente di nuovo, allora ti sei fermato, potevi aspettare e metterne, dai, arriva a 10, cioè funzionava così prima. Adesso anche soltanto dire: guarda, un paio di pezzi nuovi, un Mashmallows 2025, non lo so, potrebbe essere l'idea, se c'è qualcosa di bello e qualcosa che vogliamo raccontare, però non precludo niente, anzi, cioè proprio secondo me la cosa importante per noi adesso è dire: ci siamo e ci piace suonare, vogliamo suonare, ci piacerebbe portare in giro, ti accennavo prima fuori da mentre si girava il pezzo, l'idea di fare qualcosa anche per chi ci ha sempre seguito, quindi so, il vinile di Qualcosa di Nessuno, che è stato il disco, diciamo, che è stato più apprezzato ed è stato anche più distribuito, quindi questa cosa qui che potrebbe essere una chicca, anche perché il vinile suona sicuramente diverso, è un qualcosa di particolare che non vai a perdere come CD, che anch'io c'ho 100.000, molte volte non so dove sono, dove li ho messi, adesso in questo periodo scolico dove li ascolto, cioè il CD adesso, prima ce l'avevi in macchina, adesso, capito, c'è la PlayStation, glielo metti dentro, devi andare col joystick, cioè una volta era diverso, era. Sì. È più facile adesso quasi la cassetta o il vinile se c'hai il lettore. Quindi provare a fare qualcosa e vedere tranquillamente, se a un certo punto, più che altro è una questione di tempo, Danilo. Okay. Cioè avere il tempo di fare un weekend con Andy, principalmente Fabio, quindi basso e chitarra storiche, che ci si mette lì, si inizia a strimpellare un attimino, comunque c'hai quasi 30 anni di esperienze e di storia, quindi ci vuole poco, poi che il pezzo sia bello e il pezzo sia brutto. Ok, e rientriamo, come dicevo, mi sarebbe capitato diverse volte che saremmo dilungati un attimo dal fuori onda, quindi intanto c'è la base sotto che è andata, quindi non è un grosso problema, però intanto comincio un attimo con i ringraziamenti, che ti ringrazio della disponibilità di aver passato questa oretta qui con me, aver parlato di quello che è stato i Mashmallows, di quello che è stato effettivamente di recente e quello che magari saranno i Mashmallows. E ti vado a fare una domanda scarica barile, con il più breve tempo possibile ti chiedo: c'è qualcosa che non ti ho detto che vorresti dire? Che siete fortunati ad avere una radio così. Vi invidio, sinceramente, da riminese, la vostra radio è una radio che io ho sempre apprezzato da anni e anni e anni, e il fatto di gente come te che gli dà continuità, che fa programmi anche legati a un certo tipo di musica, è qualcosa di fondamentale, che al tempo, fine anni 90, ce n'erano diverse, il fatto di esserci ha portato Radio Onda d'Urto, ha portato festival, ha portato tante cose. E poter dar continuità veramente motivo, anche conoscendoti, di orgoglio, e veramente grazie per quello che fate, ma lascia perdere le interviste e tutto, ma grazie proprio per band che fanno i dischi, poterli fare parlare, dare un po' di visibilità, ma più che altro far ascoltare questo tipo di musica. Cavolo, ti ringrazio tantissimo, un bel complimentone, sia personale che ovviamente per tutta la radio che c'è dietro, Tragitta Fucico e l'Estremo Rock. Io, come ti dicevo, sono effettivamente arrivato alla fine, ce ne andiamo a ascoltare il pezzone di quello, uno di quelli più apprezzati di Qualcosa di Nessuno, effettivamente l'omonima Qualcosa di Nessuno. E come ti dicevo prima, ti ringrazio della disponibilità, dei complimenti. Grazie a voi. Che mi hai fatto, e speriamo di vederci presto. Assolutamente, grazie ancora. Grazie a te. E io, come dicevo, ciao, vado effettivamente a chiudere la puntata e come di consueto la chiusura. Buon punk rock a tutti.